Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché i programmi non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono si in gioca ballo un po' adesso. Per uno, beh, però bisogna parlare io, poi parlate, facciamo un po' per uno per correttezza. No, dai, non è possibile. No. Mi fai finire di parlare. No, io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera educata, gioiosa, emotiva, appassionante, ed è la prima volta che diciamo la verità, io personalmente non ne posso più di sentire lo streaming Renzi Grillo, però ne voglio parlare ancora questa mattina, anche se praticamente sono 24 ore che comunque ne parlo, ne discuto e ci ragiono sopra, però non l'ho mai fatto con le persone che mi ascoltano, che hanno modo di intervenire in diretta chiamando all'800240024. È proprio con voi che ne voglio parlare. Non mi interessa chi ha vinto o ha perso, abbiamo dato i punti per tutto ieri, secondo me è finita pari, non ha vinto nessuno, abbiamo perso tutti noi che pensavamo che ormai la civilizzazione digitale fosse qualcosa perlomeno abbastanza sedimentata in noi, ma ci rendiamo conto che anche i nostri più illustri, eccelsi, evidenti rappresentanti ancora devono studiare molto. Facciamo un passo indietro prima di entrare in merito a quanto lo streaming sia uno strumento di trasparenza e democrazia, quanto un SMS mandato dal Presidente del Consiglio abbia un senso nel grande movimento mediatico, quanto di giornalisti assiepati con telecamere, taccuini, registratori in mano davanti ai politici che devono dare testimonianza di se stessi e il loro pensiero siano inutili di fronte al fatto che questo è sufficiente che mandino un SMS, è sufficiente che mettano un messaggino su Facebook, che improvvisamente interrompono la catena tradizionale della mediazione. Perché faccio un passo indietro? Vi racconto alcuni aneddoti. Diamo per scontato che sono degli ingenui, la coppia di fidanzati, amanti, concubini non so bene di Ischia, che qualche settimana fa la mattina si alzò alla buon'ora e fece il giro di tutte le edicole dell'isoletta per comprare tutte le copie del giornale locale. Perché? Perché avevano fatto un fantastico scoop. Avevano riprodotto, visto che nei piccoli agglomerati, soprattutto nelle isole, tutti si conoscono, alcuni fotogrammi di una pornotrombata che saranno fatti su uno di quei canali di scambi visuali, pensando che poteva essere divertente, poteva rinsaldare i legami di coppia al fatto di fare le zozzate davanti alla webcam, facendosi anche dare qualche soldino dal guardone smanettone che stava dall'altra parte. Ma il guardone smanettone non avevano considerato questi ragazzi digitalmente avanzatissimi, avranno avuto in tasca lo smartphone di ultima generazione, avranno avuto un perfetto computer con una webcam incorporata e una connessione fanta veloce per poter fare quello che hanno fatto, ma l'hanno immaginato. Dall'altra parte c'è una persona che con un semplice programmino, ma anche semplicemente con lo stesso software che gestisce la sua telecamera, o anche semplicemente usando lo stesso smartphone, potrà tenersi copia della loro arrampicata sugli specchi. Perché? Perché una volta paghi, poi le altre ti diverti senza pagare tenendotene la copia, e quindi questa copia è diventata qualcosa in rete di inarrestabile. Quindi già dappertutto in rete c'era il filmatino di loro due facendo le zozzate, però loro pensavano ingenuamente che andando la mattina all'alba alle edicole comprando tutte le copie del giornale locale avrebbero bloccato la notizia, non immaginando che in realtà la notizia è diventata tale proprio per quello che loro hanno fatto. Notizia numero due, questa mattina la spara il giornale in prima pagina, ma però vedo che già in rete ormai è l'argomento del giorno, tanto è stato creato addirittura un banner per lanciarla. Il protagonista è L'Ora di Calabria, un quotidiano calabrese che aveva pronto questa mattina uno scoop in qualche maniera coinvolgeva il figlio di un importante senatore locale, uno scoop che ovviamente lo coinvolgeva su vicende tipo giudiziario. Il papà pare che si muova per dire no, questa notizia è meglio che non esca. Cominciano le pressioni sul direttore del giornale da parte dell'editore, meglio che non la fai uscire, lui tiene duro, chiama anche lo stampatore, non si sa cosa c'entra, dice ma no, lascia perdere, meglio che non li disturbi, un cinghiale ferito fa la strage intorno a sé. Fatto sta che pare che la notte, alle due di notte, si blocchino le rotative del giornale. Beh, oggi non c'era maniera migliore. Se avessi affidato l'incarico a uno di quei geni della comunicazione per far diventare una notizia dirompente, esplosiva, che quella che bloccare le rotative di un giornale. Infatti, tutti non parlano d'altro che il giornale cartaceo sarà stato anche bloccato nelle sue rotative, ma la gloria del direttore dell'Ora di Calabria questa mattina è proclamata ovunque. Lo screenshot di quella prima pagina sta passando di sito in sito, di blog in blog. E naturalmente, perché, mi domando, qualcuno è così ingenuo di pensare che ancora agendo sul mondo della comunicazione tradizionale si possa ottenere qualcosa di strabiliante come bloccare una notizia? 800 24 0024. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, no, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita. Ma vorrei che prima tu ascoltassi. Se sei in difficoltà sulla prevendita, sì, ti diamo una mi mano. Dai una mano, dai. Questo, fammi una cortesia. Questo non è Sanremo. Ma ti mando degli omaggio. Questo, no, ma lascia stare. Il fatto di dire i tuoi programmi, tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa... È diventato quasi un mantra. Forse averlo sentito ieri, ripetuto, tutti sappiamo quelli che si sono detti. Abbiamo fatto tutti i pronostici possibili, le diagnosi possibili sul lettino delle anatomie e delle necroscopie, ormai c'è questo file che gira e rigira. Qual è il mio punto di vista? Il mio punto di vista, che è una maniera un po' arraffazzonata, furbesca, molto furbesca la parte di Grillo, di usare delle metodologie che in realtà in sé hanno ben poco di nuovo, lo streaming, che c'ha di nuovo lo streaming. Dal 96 la Real Network ha messo sul mercato il player per poter mandare in streaming qualcosa. Cosa ha dal punto di vista della trasparenza di importanza? Nulla. E perché c'è cascato Renzi? Non lo so, perché pensa di essere digitalmente avanzatissimo e quindi di controllare tutto ciò che bene o male ha a fare con il mondo digitale. Stefano da Venezia. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io telefono per dire che alla fine non è che qualcuno vince e qualcuno perde nelle consultazioni. Cioè, le consultazioni vengono fatte perché si esplora la volontà politica dei, diciamo, degli attori politici presenti in Parlamento per valutare quali sono i margini di manovra non solo del governo ma anche degli eventuali provvedimenti. Eh sì, ma scusi, ma che c'entrano le consultazioni? Noi stiamo parlando di una consultazione, secondo lei? Queste cose qua erano consultazioni, no? Questo è il bello. E improvvisamente di una banale procedura istituzionale di cui nessuno avrebbe avuto se non degli scarni resoconti di velina d'agenzia di stampa parlamentare o di dichiarazioni ufficiali fatte davanti a quel podio, abbiamo un fantastico evento mediatico. Questa è la novità, non era una consultazione. Questo è stato lo sbaglio, secondo me, l'ingenuità di Renzi di accettare lo streaming come modalità privilegiata dell'incontro con Grillo. È stata l'idea furbesca e intelligente, devo dire, ha usato bene il mezzo di Grillo, che ha detto no, creo questo meccanismo perché su di me si accende precisamente una occasione di mettere in difficoltà il Presidente del Consiglio. Nicola è caduto. Allora, Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università Bicocca di Milano. Vediamo, Andrea, se riusciamo questa mattina a fare un punto, se possibile, su quello che è il livello di alfabetizzazione digitale delle istituzioni e dei cittadini, alla luce di questi banalissimi episodi che ho citato questa mattina, assemblandoli, perché secondo me c'è un filo comune. Ma direi che siamo davvero ancora indietro, insomma, se dal punto di vista tecnologico l'Italia ha fatto negli ultimi anni, come diffusione di banda, come diffusione di computer, molti passi in avanti, quello che manca ancora è effettivamente la diffusione della cultura digitale, ossia della consapevolezza dell'uso dei mezzi che facciamo. Molti usano ad esempio Facebook credendo di parlare unicamente con i loro amici, è un esempio che abbiamo fatto più volte, in realtà stanno pubblicando a tutte le persone. Insomma, lo stesso uso delle email crea alcuni problemi anche a persone che lo usano da anni come noi che lavoriamo in questo campo. Proprio questa mattina un collega ha risposto a tutti quando era convinto di rispondere a un'email semplicemente a me, e questo ha generato non pochi problemi di carattere diplomatico, diciamo così. Effettivamente quello che manca ancora molto spesso è l'attenzione allo strumento che stiamo utilizzando, perché lo paragoniamo agli strumenti che abbiamo usato sempre in passato, che erano strumenti che permettevano una comunicazione o di streaming, o diciamo da uno a molti, o una comunicazione uno a uno, quindi con forme di controllo comunque molto stretto del contenuto. Qui in realtà la novità vera di internet, come si dice ormai da anni, insomma, è una cosa così noiosa che spesso non ripetiamo più neanche, è il fatto che in realtà tutti possono partecipare, e una volta che un'informazione è entrata in rete non la si può fermare, insomma. Ecco, ma come ti spieghi tu, Andrea, però, ancora delle ingenuità di questo tipo? Non tanto nella pretestuosità o nel desiderio sincero di diffusione della notizia, di trasparenza della notizia, quindi vogliamo parlare soltanto davanti al popolo della rete che ci guarda, dove? Attraverso lo streaming, che non c'è nulla di più parziale, di più relativo rispetto alla verità assoluta dello streaming di un pezzettino di una vicenda parlamentare. Infatti l'ho dimostrato sapendo ben usare almeno questo tipo di modalità fra lo spettacolare e clamoroso Beppe Grillo, ma che ancora anche dal punto di vista opposto, del desiderio di reprimere, di nascondere, di censurare, si sia ancora così ingenui pensando che bloccando le rotative di un giornale si blocca una notizia e non supponendo che questo è il gesto più clamoroso, più formidabile per far sì che questa notizia diventi una realtà. Sì, questo è veramente dell'incredibile. Il potere, insomma, senza adesso volere insomma, per forza rappresentare in maniera negativa, però coloro che gestiscono gli affari pubblici sono davvero spaventati all'uso di internet e dalla potenza che ha internet nel diffondere le informazioni e sperano di poterlo gestire come si poteva gestire una rotativa. Effettivamente 30 anni fa io bloccavo la rotativa e la notizia non sarebbe circolata, sarebbe circolata semplicemente in alcuni ambienti, insomma. Adesso bisogna rendersi conto che effettivamente la possibilità di produrre notizie, di racconto dei fatti è una possibilità che è davvero diffusa, è davvero alla portata di chiunque. Appunto stamattina anch'io aprendo Facebook, una delle prime notizie che ho visto è stata la storia appunto di questo tizio che ha cercato di bloccare la notizia dell'Ora di Calabria, che è diventato il giornale in questo momento più noto in Italia. Pensa, certo, non conoscendo l'eroe è diventato un eroe nazionale, però figurati, certo. Gli daranno il Pulitzer per aver resistito, ma ha fatto bene, è stato intelligentissimo, oltre che deontologico logicamente corretto, doppiamente intelligente, ha resistito perché è giusto resistere di fronte alle pressioni, ma sapendo che comunque se fosse arrivata all'esasperazione di un gesto così sciocco, così clamoroso, di bloccare la rotativa della carta, quello sarebbe stato il momento della massima espansione. Io dalle 7 di questa mattina che mi arrivano, fatto già un banner della mano incatenata a cui viene impedito di scrivere, figurati, hanno fatto un autogol formidabile. Sileno da Venezia. Sileno da Venezia. Sì, pronto? Velocemente, il suo parere. Sì. Salve, niente, io ho chiamato per intervenire per quanto riguarda lo streaming di ieri tra Renzi e Grillo. Devo dire che mi sono molto divertito perché ero in macchina a fare un viaggio molto noioso e lungo e tutto questo siparietto è stato molto divertente. Io mi sono entusiasmato, anch'io l'ho sentito in macchina, non mi sembrava il vero di tornare a casa e rivedermelo in televisione. Sono rimasto un po' deluso perché era stato un po' troppo breve. Comunque sono d'accordo con lei per quanto riguarda il discorso che non è stato un incontro politico o tale, cioè è stato uno show come tutti gli show che si sono sempre susseguiti adesso e che riguardano sempre la nostra politica, quindi, e soprattutto quando si parla di Beppe Grillo. Quindi non poteva essere diversamente il risultato. Vabbè, l'importante è che una cosa che sarebbe stata noiosissima l'ha divertito. Poi sull'effetto politico non è questo il luogo in cui ci interessa capirlo. È accaduto qualcosa, c'è stato un evento, un avvenimento, c'è stato proprio questa sorta di cortocircuito fra maniera brutale, anche un po' rozza, approssimata di usare i media digitali e ingenuità di chi pensa di conoscerli molto. Riccardo da Firenze. Riccardo, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Io penso che nel caso di ieri la verità della notizia ha perso autorevolezza con lo streaming Renzi Grillo, perché soprattutto chi l'ha voluto, cioè Grillo, secondo me non si è sentito più libero forse di dire quello che veramente voleva dire. Secondo me ha avuto un gran risultato, tutti stiamo parlando di noi, sono passati 24 ore, non abbiamo detto mezza virgola su quelle che sono state le consultazioni di tutte le altre forze politiche, di questa ancora stiamo ragionando sui suoi effetti secondari e sul suo metasignificato. Melog, cronache meridiane. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming, questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone, smettila su questo tema, c'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, cara. È finita, buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Certo, fatemelo dire, esci da questo blog, è una frase che sa tanto di anni 90, non so cosa ci sia di questo, quale blog, ero dentro un blog perché ero dentro lo streaming, perché stare dentro lo streaming vuol dire stare dentro un blog, c'è tanto dolore là fuori, siamo nel mondo irreale, nel mondo virtuale, nel mondo della contraffazione, fuori c'è sangue, lacrime e carne umana che soffre, visione boy scoutesca della realtà, che in realtà, devo dire, contraddice ancora una volta la velocità, però è un automatismo ginnico di mandare un SMS di Renzi che ha colpito Grillo. fra le scapole, l'ha bloccato, ma non perché dicesse qualcosa di particolare, era una sorta di senso di fratellanza nei confronti dei 5 Stelle che hanno votato Grillo, cioè mi dispiace per voi e non vi meritate questo. Però in realtà, visto che i giornalisti allupati stanno lì fuori in attesa di notizie, subito è entrato nel circolo delle agenzie e quindi subito è diventato realtà. Vediamo se abbiamo un ascoltatore al telefono. No, Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, riprendiamo il filo allora del ragionamento rispetto a quello che hanno detto anche i nostri ascoltatori. Mi sembra però percepito, percepibile da parte di tutti che l'aspetto dello show, dello spettacolo, della rottura di livello in un sistema molto vecchio e molto provinciale di lettura degli eventi, che fa sì che diventi un evento qualcosa che accade contaminato agli strumenti della rete che usano anche i nostri nipotini di 7 anni, questo abbia ancora rilevanza di notizia. Sì, è come dicevi tu prima, l'interruzione della catena della mediazione. Effettivamente queste cose molto probabilmente succedevano anche prima, però succedevano dietro delle porte e poi venivano raccontate in maniera che fosse anche istituzionalmente accettabile. Probabilmente dietro quelle porte accadeva anche di peggio in passato. Questo ha tolto in qualche modo appunto ogni forma di sacralità all'esercizio del potere politico, e da una parte noi potremmo dire che questa è una buona cosa, però effettivamente ci fa anche toccare con mano il fatto che i politici sono persone come noi, no? Che insultano, che sono insultate, che si arrabbiano, che tutto sommato in molti casi non hanno la battuta pronta o effettivamente soluzioni molto migliori di quelle che potrebbero venire. Devo dire, hanno fatto di tutto per farlo, dal bagaglino con Di Pietro si tira le torte in faccia, a Max Matano che va davanti a Montecitorio e fa le interviste con la macchinetta che fa le scoregge di nascosto, e mi sembra che più di questo ormai il corpo dei politici ci appartiene, simile al nostro, nel bene o nel male, e nella gloria e nelle nefandezze. Giacomo da Livorno. Giacomo. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, volevo fare un paragone un attimino tra quello di due notizie che ha dato, tra diciamo così, la video chat dello smanettone che guardava i due che facevano sesso e Grillo e Renzi. Nel senso che alla fine il principio è lo stesso, i due facevano sesso davanti a una persona, quello guardava e si divertiva, e loro facevano sesso per loro, quindi per essere visti. E così hanno fatto Grillo e Renzi. Con il risultato che Grillo e Renzi non hanno parlato assolutamente di quello che dovevano parlare e ci hanno tutti divertito, noi guardoni. Così come i due non hanno assolutamente goduto nella loro porno trombata, come giustamente l'ha definita lei, ma hanno fatto divertire. Certo, se uno lo fa a beneficio di qualcuno che ti guarda, sei tanto più preoccupato di essere preso dell'angolatura giusta, di essere visto nella maniera giusta, di non mostrare il lato peggiore, che è difficile, ti diverti. E in effetti probabilmente è proprio così. Mi sembra che il paragone fra lo streaming e la porno chat mi sembra una sublime lettura mediatica del nostro ascoltatore. Alessandro da Bologna. Sì, salve, buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo spostare un attimo il tiro sulla discussione e parlare provocatoriamente di strumenti di disinformazione di massa, cioè i social, tutti gli eventi dove gli utenti di rete hanno libero accesso, possono essere comunque sfruttati con obiettivo esattamente contrario, cioè come il marketing funziona, diciamo, per vendere il prodotto. Uno può usare questi mezzi per vendere il proprio prodotto, dicendo che però, secondo me, sono le cose che non si riescono a sentire, sono quelle più pericolose. Ma cioè, lei ha perfettamente ragione, in quanto che chi sa usare poi questi mezzi, che ne conosce le malizie, non certo i politici che twittano ogni 5 secondi arrabbiandosi poi qualcuno li prende in giro, devo dire che riesce in qualche maniera, non dico a governare, ma a influire su quelli che sono i flussi di pensiero. Mandiamo un attimo quello che è accaduto dopo lo streaming, che è importante poi il ritorno alla realtà. Uscite dalla dimensione, dal circolo magico dello streaming, prima Grillo e poi Renzi si siedono davanti al leggio della Camera dei Deputati, dove ci sono i giornalisti per la consueta conferenza stampa. Ora fatemi tutte le domande del mondo, fatemi tutte le domande del mondo. Malaguti è quello sempre lo solito Malaguti? Mi dai un bicchiere d'acqua, scusa? No, scusa un attimo, scusa un attimo. Gli avete consultati o no? Domanda. No, no, il blog, vedi che io se era per me non venivo. Ma per il blog dovevi parlare? Per il blog, per la rete, per non la rete, per il blog. Scusa, per la rete. No, no. Noi siamo venuti e abbiamo votato perché abbiamo questo principio di questa parola. Questo è Grillo che fa subito vedere i muscoli, tiene la sua posizione, quei giornalisti non ci parla, li prende in giro e non ci parla, quindi da inesistenza e inefficienza quello che è l'apparato di mediazione tradizionale. Poi avviene qualcos'altro. No, io non me ne vado più, assolutamente sino all'estinzione corporea. Decreti con dentro queste cialtonerie vergognose contro... C'è un momento che, devo dire, pensavo Grillo fosse vicino alla gloria. Quando ha detto non me ne vado più, pensavo che facessero come facevano quei pacifisti, quei gli uomini che sono, le donne sono battute per i diritti umani, come hanno fatto le femen nazinde nude quando vanno per strada. Si fosse piantato lì e si fosse fatto portare via di forza, peso morto, dai commessi della Camera. Dico, adesso che bello, pensa, lo trascinano fuori, pensa che si attacca al leggio, lo trascinano via, sangue, Grillo diventa un eroe. No, invece ha fatto questa scena, tutti aspettavano, poi si è fatto prendere sotto braccio, se ne è uscito tranquillo, come un signore che viene accompagnato a attraversare il passaggio pedonale per stare attenti che non venga travolto. Poi viene il momento di Renzi. Mi è dispiaciuto per lui, sinceramente ero abbastanza imbarazzato. Capisco la difficoltà della prevendita, capisco la difficoltà di consenso, però ci sono milioni di italiani che gli hanno dato fiducia e gli hanno chiesto prova a cambiare l'Italia. E vedevo le facce imbarazzate dei suoi accanto quando provavamo a dire beh, entriamo nel merito, sei d'accordo sul tagliare i costi qui? Innanzitutto esordisce quando si tirano il pezzo, ma lo so a memoria, dicendo ai giornalisti dovete pagare il biglietto per stare qui. Fa una battutina un po' da seminarista, da boy scout, che è pallidissima battutina rispetto alle consumate non battute ma spocchiose manifestazioni di mestiere che fa Grillo. E poi comincia con i giornalisti una sorta di chiacchiericcio affabile, anche lui facendo vedere che li conosce uno a uno, sorridendo, come se fossero amichetti della parrucchietta, fossero tutti insieme, che fossero tutti amici. Ancora una volta delegittimando e destrutturando quello che è il sistema di mediazione tradizionale. Andrea Rossetti. Sì, la stampa, vi ricordate che si ricordano tutti, era concepita come il quarto potere, no? Come il potere che avrebbe dovuto controllare i tre poteri tipici dello Stato. Ecco, sembra che in questo momento, grazie forse alla tecnologia, effettivamente questo potere sia completamente venuto meno. Da una parte perché i giornalisti effettivamente cercano di farsi amici politici, insomma cercano di essere voce del politico, dall'altra perché, o forse lo fanno perché si rendono conto proprio che possono essere completamente e immediatamente bypassati appunto a strumenti come Twitter, come guarda, Facebook. Le notizie più importanti nel campo dei retroscena politiche sono state ottenute dalla telefonata del finto Vendola che ha fatto la zanzara. Alla fine la grande notizia era quella, attraverso un giochetto teatrale con un vecchia metodologia che nulla a che fare con l'informazione, però si è avuta la vera notizia e quelli che stanno lì tutto il giorno non hanno tirato fuori nulla. E no, perché la vera notizia c'è nel momento in cui la persona dall'altra parte crede di parlare in privato, no? Crede di parlare in un contesto che non è più quello pubblico, insomma. La rottura tra pubblico e privato si è davvero rotta per i politici. Ma ti ricordi quando Augusto Minzolini ha considerato il fuoriclasse dei dentisti politici? Certo. Si faceva una giratina la sera davanti ai palazzi, li prendeva sotto braccio, prendevano il caffè, questi si lasciavano andare e lo scriveva il giorno dopo. Allora, sicuramente non ci piaceva un giornalismo fatto in questa però maniera. Portava notizie. Però portava notizie e forse le mediava anche però, no? Quindi faceva in modo di far apparire queste persone diverse da quelle che erano, migliori probabilmente di quelle che erano. Adesso il politico che twitta direttamente o che usa Facebook direttamente, nella maggior parte dei casi fa brutta figura. Io vedo, insomma, seguo un po' i politici della mia città, Pavia, e quando intervengono effettivamente uno ha un po' vergogna anche del fatto che viene rappresentato a volte da persone di questo tipo, no? Perché effettivamente ci si rende conto che i meccanismi che sono dietro alle scelte spesso sono meccanismi che insomma, sono veramente deboli, non hanno niente di ideale, non hanno niente di non hanno per niente a mente il bene pubblico. Quindi state maniera. Attenti a tutti gli effetti, per tornare al filo di partenza, il social media vi mette in mutande in ogni caso. Grazie Andrea Rossetti, a domani.